Il Barcellona è stata la prima squadra nella storia a segnare più di 3 gol a una squadra di Mourinho. Guardiola non ha mai perso il classico, anzi l'ha sempre vinto. 5 su 5 con 15 gol fatti, 3 di media partita dunque e 2 soli subiti, 0 al Camp Nou, eccetera, perché poi si può andare avanti, credo, a piacere su questo punto. Non vi dico i messaggi, l'ultimo firmato Piero dice: sarà clamoroso, ma il gioco del Barcellona è noioso dal punto di vista dello spettatore non schierato. Piero, provi col subbuteo, tenti eventualmente con, come si chiama quello che fa il curling? Curling, com'è che si pronuncia, Fabio? Curling. Tenti col curling, perché può essere adesso una buona alternativa. Sì, ma sinceramente definire noioso, cioè lo puoi definire in tutti i modi, ti può anche non piacere, No, diventa certe volte noioso. Io trovo più stucchevole che noioso quando non quel tipo di calcio, quando non funziona come funziona ieri sera. Ma guarda Gigi, faccio l'esempio della partita che in molti hanno citato, soprattutto su internet, tra Barcellona e Inter, la gara di ritorno. Quello fu un Barcellona, non definire noioso, però fu un Barcellona che andava a una velocità inferiore, anche perché con tutta probabilità quell'Inter, pur in inferiorità numerica, era riuscita a chiudere tutti i rubinetti, ed effettivamente era stucchevole, nel senso che la continua ricerca, cioè il gioco del Barcellona è fantastico, ma ha un limite, è sempre questo, cioè o loro lo fanno ai massimi livelli, cioè alla massima velocità, o altrimenti diventano un qualcosa che può anche innervosire, perché tu dici arrivano sempre lì e poi non la buttano mai dentro, ed è effettivamente vero, quando il Barcellona non gioca bene, fa le stesse cose che abbiamo visto ieri sera, magari fa anche 20 tocchi, però al 21esimo la perde, oppure la tira male, oppure si comincia a pasticciare e la difesa riesce a chiudere. Quello è il vero grande limite del Barcellona, cioè il fatto di avere solo questa dimensione, che è una dimensione fantastica, intendiamoci, ma di non riuscire ad averne un'altra,